Quello che tu sai ce l'ho anch'io, quello che brucia il fuoco amico mio. Sorse già l'acqua che verserai, non avrò sete quando tu berrai. Porgi la coppa al mio ruscello, poggia le labbra, tu sei mio fratello. C'è il mio sorriso, tu lo verrai, non sarò triste quando riderai. Nei miei ricordi, anni di buio, socchiudi gli occhi e sento quel profumo. Ora il mio orgoglio è un po' malato, perciò ti chiedo come stai. Non è la rabbia, non è il mattino, quello che scende nel tuo solo vino. Quello che sale, polvere e fumo, voltati intorno, non c'è più nessuno. Guarda i miei occhi, dimmi chi sono. Prima ero terra e sono un uomo solo. Ora il mio sguardo è un po' appannato e il mio orologio si è fermato. E tutto il resto dove è andato? Voglio correre di nuovo e superare. Fammi correre, mio Dio, voglio sentire ancora il vento congelarsi sul mio viso, quanto soffierà, mio Dio. Ti conviene, è quel messaggio che leggerai, io saprò tutto quando capirai. Ora che è chiaro, dimmi chi sono, sono venuto a chiedere perdono. Ora che scende l'acqua,